Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, 139esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. È domenica 29 dicembre 2013. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per la selezione musicale Giona Vinti e Lorenzo Ranfagni. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Siamo sempre nel parco dell'Abatino, in compagnia del professor Antonio De Marco, che ci sta accompagnando in un lungo viaggio tra storie di animali selvatici ed esotici che vi stiamo somministrando nel corso delle nostre diverse puntate. Nella rubrica Visti da vicino cerchiamo di conoscere animali a noi quasi sconosciuti e quando ci riusciamo parliamo di ciascun individuo come storia a sé. Ma spesso, come avrete sentito e come sentirete in questa puntata, parliamo anche di loro come gruppo per descrivere le difficoltà di chi, come il professor De Marco nel Parco dell'Abatino, sta cercando di aiutarli, affrontando anche le diverse problematiche di ciascuna specie, quelle che in linguaggio scientifico si chiamano problematiche specie specifiche. In questa puntata incontreremo un gruppo di gufi reali. Per informazioni sul Parco dell'Abatino, per sostenerlo ed eventualmente per visitarlo, www.parcoabatino.org. Ci sono dei gufi allineati su un asse all'interno di questa grande gabbia, sono meravigliosi, ci stanno guardando con un po' accigliati. Come sono arrivati? Questi dunque sono arrivati in momenti diversi, a differenza delle scimmie in cui se arriva un nuovo soggetto non è possibile integrarlo perché c'è un problema di gerarchia, di gruppo eccetera, per cui bisogna fare proprio una nuova struttura. Nel caso di gufi invece è possibile in qualche modo integrare il gruppo, quindi sono arrivati in tempi diversi tutti animali sequestrati e portati da associazioni animaliste e anche dal corpo forestale. Non hanno problemi, sono animali quindi tutti nati in cattività questi. Questo è stato un po' un problema in questo senso, che quando un animale viene preso in natura perché ha difficoltà e quindi in qualche modo deve essere trasferito in un centro di recupero, nell'eventualità che abbia recuperato può essere immesso senza problemi. Questi invece non sono stati presi in ambiente naturale, ma sono stati presi da un ambiente controllato e quindi l'immissione è sempre problematica. Nel caso dei gufi reali ci sono delle riserve, nel senso che immetterli nell'ambiente, in questo ambiente, potrebbe portare che vanno a interagire con altre popolazioni di altri uccelli, falchi o comunque di altri soggetti più problematici per quanto riguarda la sopravvivenza, e quindi da questo punto di vista ci sarebbero dei rischi, almeno una delle opinioni che ci stanno a proposito. Noi su questo abbiamo fatto anche delle indagini utilizzando alcune competenze presenti presso la Seconda Università di Roma, quindi abbiamo visto che da un punto di vista genetico sono compatibili con le popolazioni appenniniche

un pizzico di cannella e un pizzico di pepe nero. La preparazione iniziamo mettendo l'uvetta a bagno nel vin santo nel rum per una decina di minuti. La scoliamo e recuperiamo il liquido, che andiamo ad unire in uno zuccotto assieme all'acqua, l'olio di semi di girasole e lo zucchero di canna e un pizzico di sale. Mescoliamo con una frusta per un minuto e aggiungiamo la farina, la fecola e il lievito setacciati. Ancora uniamo la scorza di limone grattugiata, lo zafferano, i canditi e l'uvetta. Nel frattempo ungiamo e infariniamo una teglia rettangolare e ci versiamo il composto. Non importa che la torta diventi molto alta, quindi va bene anche una teglia abbastanza grande, perché dovrà risultare, una volta cotto e lievitata, un paio di centimetri. Cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa mezz'ora. Sforniamo la torta e lasciamola raffreddare bene. Intanto, a bagnomaria, sciogliamo il cioccolato fondente. Aggiungiamo mezza tazzina da caffè di acqua e mescoliamo bene con un mestolo di legno e poi con la frusta, fino a quando non diventerà bella sciolta, cremosa, senza grumi. A questo punto aggiungiamo la polvere di chiodi di garofano, la cannella ed il pepe. Quando appunto la salsa è ben sciolta, ricopriamo la torta con questa cioccolata e lasciamo raffreddare in frigo in modo che il cioccolato ritorni solido. A questo punto tagliamo a rombi e serviamo, magari accompagnando con una bella tisana calda. Sostiene Vallauri. La LAV, dopo una raccolta di firme durata qualche mese, ha consegnato al Presidente del Senato, Piero Grasso, una petizione con la quale si richiama l'attenzione del Parlamento sulla opportunità, necessità, secondo gli animalisti, di introdurre nell'ordinamento 10 nuove leggi. Le citiamo per sommi capi: si va dal riconoscimento in Costituzione del principio della tutela del valore del rispetto degli animali, a una modifica del codice civile per riconoscere gli animali come esseri senzienti, al rafforzamento del codice penale per i reati contro gli animali, lo stop alla vivisezione, il contrasto del randagismo, la disincentivazione degli allevamenti intensivi, la promozione di scelte alimentari vegetariane e vegane, il rafforzamento della protezione degli animali selvatici con il divieto della caccia, il divieto di allevamento di animali da pellicce e la trasformazione degli zoo in centri di recupero degli animali sequestrati e maltrattati. E quindi un pacchetto di riforme che, se fosse approvato, effettivamente cambierebbe radicalmente lo stato delle cose per la condizione animale, ma evidentemente di riflesso anche per la nostra società generale. Che valutazione si può dare di questo pacchetto, di queste proposte che al momento non sembrano avere una possibilità di approvazione in Parlamento? Beh, intanto devo esprimere ancora una volta il mio moderato scetticismo sullo strumento diritto. Mi dico, sarebbe molto meglio che ci si arrivasse con l'etica, cioè con la conversione della coscienza dei carnefici e dei produttori e con il consumo critico dei mangiatori e degli indossatori. È sempre un po' umiliante, come sanno bene i cinesi, che non hanno mai in millenni di civiltà prodotto un codice di nessun tipo, dover ricorrere al diritto piuttosto che alla virtù. Detto ciò, percorro rapidamente questi 10 punti. Io stesso, devo dire, ho fatto un dodecalogo alla fine di un mio studio intitolato Animali, istruzioni per il non uso, ma quel dodecalogo era interamente rivolto al consumatore, in base al principio che nella società dei consumi il consumo critico è l'atto politico per eccellenza. E devo dire che i nostri politici, o meglio politicanti, non fanno niente per darci la sensazione che sono più importanti del cittadino. Cominciamo dalla modifica del codice civile. Qui c'è la richiesta dei 24 francesi e pone delicatissimi problemi teorico-dogmatici, perché c'è poco da fare e gli animali resteranno sempre nel dominio dell'uomo, se non sarà proprio il diritto di proprietà sarà qualcosa del genere, però si può pensare a delle forme analoghe alla tutela, eccetera, quindi lì qualcosa si può fare. Il rafforzamento del codice penale non so, perché sono molto critico sul carcere e prima di aggravare le pene ci penserei davvero due volte. Lo stop alla vivisezione mi trova molto molto consenziente, perché conosco rappresentanti di migliaia di medici che dicono che non è neanche scientifica. Se poi lo fosse, come lo è certamente la sperimentazione sull'uomo, susciterebbe comunque dei problemi etici. Intanto almeno gli incentivi ai metodi senza animali, quelli li approvo al 100%. C'è anche un centro europeo a Varese, potenziamolo, cerchiamo di convincere le facoltà di medicina e gli istituti di ricerca a passare ai metodi alternativi. Qui non ci sono limiti praticamente. Il contrasto all'abbandono e al randagismo è già affrontato dalla legge 281 del 1991, quindi qui non mi pare che ci sia molto da cambiare sulla carta. L'incentivazione di scelte alimentari senza prodotti di origine animale rientra pienamente nel mio dodecalogo. Non so se occorre anche un intervento legislativo, per così dire, contro le leggi del mercato. La protezione degli animali selvatici è già arci prevista sulla carta, bisogna renderla effettiva. Il divieto di allevamento di animali per pelliccio, ok, ma non dimentichiamoci che le scarpe e le borse sono semplicemente pellicce depilate. La cosa più interessante forse è proprio l'introduzione degli animali in Costituzione. Io penso che la Costituzione è veramente di tutti e non può essere di parte. Se ci dà fastidio un intervento della Conferenza Episcopale, può dare fastidio a molti cittadini l'intervento di animalisti militanti. Però credo che si esce da questa passa se accettiamo che nella Costituzione possono solo entrare grandi derive precedenti del diritto ordinario, del diritto a livello legislativo. Ora, l'ho detto tante volte, gli ultimi 20 anni, 1990-2010, segnano una espansione impressionante del diritto a protezione degli animali. Il diritto è diventato più animalista di prima e si è modificato più di ogni altro ramo del diritto. Quindi credo che siamo maturi per una recezione costituzionale. Naturalmente c'è il problema dell'effettività, perché la Costituzione tedesca e il Tierschutzgesetz tedesco sono assolutamente animalisti, e poi i tedeschi immolano 58 milioni di animali all'anno, come risulta dallo Spiegel di 2 settimane fa. Invece non vedrei assolutamente limiti cautelari a livello di intervento culturale. Io credo che, questo lo dico proprio con il cuore in mano, io conosco animalisti assolutamente intransigenti che condannano la LAV come riformista, per esempio, e viceversa ci sono i riformisti che non possono fare attività con gli altri perché quelli sono estremi. Io credo sono tutti necessari, abbiamo bisogno degli intransigenti che urlano e dei riformisti che lavorano sulle leggi, perché le leggi non possono tradurre direttamente lo sdegno o l'orrore in articoli di codice. Bisognerebbe che gli animalisti tutti si riconoscessero a vicenda il loro ruolo, e quindi ben vengano anche gli estremisti che si scandalizzano per i piccoli passi che può fare il diritto, ma dovrebbero capire che il diritto è un genere letterario diverso dal grido profetico. Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista. Questa settimana parliamo prevalentemente di cibo, a partire da un articolo uscito il 21 dicembre, sabato, sul Corriere della Sera, nelle pagine dedicate ai tempi liberi, così si chiamano. L'articolo di Angela Frenda è titolato «Indovina chi viene a tavola» e parla di Galateo. Spiega 5 consigli che abbattono il rischio di ansia da pranzo o cena. vegani, vegetariani, allergici, sempre a dieta o celiaci. Regole per inviti alla tavola delle feste senza incidenti. L'articolo, a dire il vero, è un po' contorto e si rifà una visione delle cose che ci sembra sinceramente datata. Comincia comunque così. Adara Nada Finn, food editor del Guardian, alla fine ha trovato la sua soluzione. Quando in famiglia, mentre si prepara in cucina il pranzo di Natale, lo definiscono bisbigliando il vegano di casa, lui per ripicca fino a Capodanno, quando parla degli altri, li chiama gli onnivori, tanto per ricambiare. Questo è il clima, secondo l'autrice dell'articolo, che si respira in famiglie dove convivono scelte etiche e abitudini alimentari diverse. E passa subito a citare un altro caso, preso stavolta dalla cinematografia. Fa scuola un film bellissimo, viene detto, di qualche anno fa, Notting Hill, protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant. Due le scene topiche. Una è quella di quando lui la invita a cena dai suoi migliori amici che per l'occasione hanno preparato un arrosto. Sono tutti lì felici mentre sorridono contemplando la portata. Lei, Julia, sorride a sua volta, li guarda e scegliendo le parole con grande attenzione risponde: «Grazie, deve essere buonissimo, solo che io sono vegetariana». Gelo. L'altra è quella in cui lui, in uno degli incontri organizzati dagli amici con potenziali fidanzate, vede la predestinata scoppiare in lacrime davanti a un piatto di carote crude. «Sono fruttariana», spiega lei, per poi aggiungere: «e queste carote sono state ammazzate». La giornalista prosegue poi citando alcuni amici vegetariani che le avrebbero detto, aperte virgolette, che preferiscono non sottolineare il proprio vegetarianismo e che quindi cercano durante la cena o il buffet semplicemente di trovare quegli alimenti che possono essere liberi da proteine animali e accontentarsi di quelli. La giornalista prosegue: «altrimenti, non inorridite, mangiate qualcosa prima. Questo per evitare di arrivare affamati alla fine della cena e lanciarsi all'assalto del frigorifero una volta a casa. La stessa regola, sia chiaro, vale anche per chi è a dieta». Questo sarebbe dunque il consiglio di Galateo, che deriva dalle pagine del Corriere della Sera, che lascia intendere come una scelta di vita o alimentare, vegana, vegetariana, oppure dovuta ad altre questioni come la celiachia, siano qualcosa da nascondere in qualche modo, da non far pesare agli altri, da tenere come una sorta di piccola colpa privata che non deve emergere in situazioni conviviali. Una visione probabilmente radicata in certi pregiudizi, ma che per fortuna corrisponde poco alla realtà delle cose, almeno per quella che è la nostra esperienza, e anche perché forse un approccio libero fra persone che si conoscono, che si invitano a cena, può e forse deve anche comprendere la possibilità che non tutti ci nutriamo allo stesso modo e che rispondiamo a scale di valori diverse. In questo articolo, per dire, non si menzionano le situazioni di quelle minoranze religiose che seguono certi precetti alimentari. Ma evidentemente quando si ragiona di tradizione e di Galateo si tende a rifarsi a degli stereotipi ereditati dal passato, e la conferma ci arriva dalla pagina successiva del Corriere della Sera, il menù del Natale, che è un'autentica celebrazione della tradizione così com'è. Il sottotitolo è: «Dalla carbonata con polenta della Val d'Aosta al capon magro di Genova, passando per marubini, tortelli di zucca e casonseibo lombardi. Le Italie delle feste». Leggiamo le ultime due righe di questo articolo, che dice: «Così il Natale diventa la festa che tutti vogliamo. Sorprese sotto l'albero, non a tavola». Ultima notizia, anche questa dal Corriere della Sera del 22 dicembre. Il titolo è: «Il Kosovo e il processo all'ufficiale Barbara, isolata per una gatta, sottoposta a un anno di indagini e interrogatori». Barbara Balanzoni era il medico della base, non avrebbe obbedito all'ordine di non avvicinare animali. Una vicenda sconcertante che riguarda la base militare nella quale Barbara Balanzoni era impiegata come ufficiale medico in Kosovo, nelle alture di Pech. E si parla di Agata, la gattina, che, si legge nell'articolo di Andrea Pasqualetto, doveva dare alla luce ai piccoli, ma era un parto molto difficile e lei, con quel verso straziante, lo stava dicendo a tutti i militari della base. La notizia giunse all'orecchio dell'ufficiale medico in servizio, il tenente Barbara Balanzoni, che accorse alla capanna e la salvò. Ebbene, per quel gesto del 10 maggio 2012, il medico riservista, una 39enne bolognese con la passione dei gatti, dei cani e dell'esercito, è finita indagata per oltre un anno e il 7 febbraio 2014 sarà processata davanti al Tribunale Militare di Roma, al quale è stata rinviata dal GUP la scorsa settimana. L'accusa parla di disobbedienza aggravata perché, aperte virgolette, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, disobbediva all'ordine scritto, datato 6 maggio 2012, a firma del comandante della base, riguardante il divieto di avvicinare o farsi avvicinare ad animali selvatici, randagi o incustoditi, venendo così morsa. Dunque Barbara Balanzoni, che è in servizio nella città di Massa, in Toscana, ora che ha lasciato il Kosovo, si troverà processata per aver compiuto questo semplice gesto di soccorso a questa gatta che aveva un gattino morto in corpo e che non riusciva ad espellere. Agata è stata salvata e, come dice Barbara, quella poverina rischiava la vita per le difficoltà del parto. Come potevo abbandonarla in quelle condizioni? Seguiremo gli sviluppi di questo processo nel prossimo mese di febbraio. Carissime ascoltatrici di Restiamo Animali, carissimi ascoltatori, dalla nostra prima messa in onda, che risale al marzo 2012, con un po' di peripezie, grazie soprattutto alla cocciutaggine della nostra microscopica ma entusiasta redazione, siamo riusciti ad andare in onda ben 139 volte. Questa, la 139esima puntata, è l'ultima dell'anno 2013. Torneremo in onda nel 2014, giovedì 2 gennaio, con la versione extra small di 5 minuti alle ore 9.55, e domenica 5 gennaio in versione extra large per mezz'ora a partire dalle ore 12. Vi ringraziamo per l'ascolto, per aver partecipato sempre numerosi ai nostri eventi culturali, per averci mandato tanti contributi, pensieri e anche denunce che sono state preziose per la trasmissione. Vi ringraziamo per aver consultato il nostro blog. Con i nostri pregi e difetti pensiamo di avervi offerto comunque una trasmissione originale con un contenuto etico, che è purtroppo abbastanza raro altrove, e dandovi anche spunti culturali e di vita quotidiana che possano aiutarvi, aiutare tutti noi a praticare in prima persona le idee nobili alle quali sentiamo di aderire. Vi salutiamo quindi invitandovi a restare al nostro fianco e naturalmente a coltivare la consapevolezza della nostra dimensione animale, della nostra vicinanza e fratellanza al resto del mondo animale. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.